Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Emma ansava da spezzarsi il petto. Poi, in uno slancio eroico che la rese quasi allegra, scese la collina correndo, attraversò il ponticello delle vacche, il sentiero, il viale, il mercato e arrivò davanti alla porta del farmacista. Non c'era nessuno. Stava per entrare, ma al tintinnio del campanello poteva sopravvenire qualcuno. Insinuandosi attraverso la siepe, trattenendo il respiro, tastando i muri, si spinse allora sino alla soglia della cucina. Dentro una candela era accesa sul fornello. In maniche di camicia Justin portava un piatto. «Ah, stanno cenando. Meglio aspettare», pensò Emma. Il ragazzo tornò indietro. Lei picchiò contro il vetro. Lui venne fuori. «La chiave! Quella di sopra di dove sono i... Come?» Ma lei ripeté con decisione, anche se con voce bassa e soave. «Dammela, la voglio!» Disse che aveva bisogno di qualcosa per ammazzare i topi, non la lasciavano dormire. «Dovrei avvertire il padrone!» «No, sta qui!» E aggiunse, simulando indifferenza. «E non ne val la pena, glielo dirò io tra poco. Su, fammi luce!» E andò avanti nel corridoio su cui si apriva la porta del laboratorio. Appesa alla parete c'era una chiave con l'etichetta Cafarnao. «Justin!» chiamò il farmacista spazientito. «Saliamo!» Lui la seguì. La chiave girò nella serratura. Lei si diresse spedita verso il terzo scaffale. Ricordava bene quel che aveva sentito dire una volta. Afferrò il boccale turchino, ne tolse il tappo, poi ci ficcò dentro la mano, la tirò fuori alla fine, piena d'una polvere bianca. Cominciò a inghiottirla. «Fermatevi!» gridò il ragazzo buttandosi su di lei. «Non dir nulla, tutta la colpa ricadrebbe sul tuo padrone!» Poi se ne andò. Era calma adesso, quasi serena, come chi ha compiuto finalmente il proprio dovere. Quando Charles era rincasato, sconvolto per la notizia del pignoramento, Emma era appena uscita. Aspettò sino alle 6 e poi, non riuscendo a resistere oltre, pensando che fosse partita per Rouen, si spinse sulla strada maestra, la percorse per una mezza lega, non incontrò nessuno. Aspettò ancora, tornò indietro. La trovò a casa. «Cosa succede? Perché? Voglio una spiegazione!» Lei sedeva al suo secretaire e scriveva una lettera. La chiuse lentamente, dopo aver segnato la data e l'ora. Poi disse solennemente: «La leggerai domani. Adesso ti prego, non farmi nessuna domanda. Nessuna.» «Ma... oh, lasciami in pace!» E si buttò lunga sul letto. La svegliò quell'acre sapore in bocca. Intravide Charles. Tornò a chiudere gli occhi. «Oh, la morte è proprio cosa da poco», pensava. «Ora mi addormenterò e sarà tutto finito.» Beve una sorsata d'acqua e si girò verso la parete. Ma l'orribile sapore d'inchiostro non se ne andava. Alle 8 cominciò il vomito. Charles osservò che nel fondo del catino c'era una specie di polvere bianca. Si rapprendeva tutta la porcellana. «È strano, è sorprendente», ripeté. Ma lei alzò la voce. «No, ti sbagli!» Allora, delicatamente, quasi in una carezza, lui le passò una mano sullo stomaco, ma fu assalita dalle convulsioni. Gridò: «Oh, è atroce, Dio mio!» Lui si buttò in ginocchio contro il letto. «Parla! Cosa hai mangiato? Rispondi in nome del cielo!» E la guardava con una tal tenerezza negli occhi, una tenerezza che lei non aveva mai conosciuto. «Ebbene, là, là!» disse. La sua voce smoriva. Lui balzò alla scrivania, ruppe il sigillo, cominciò a leggere ad alta voce. «Non si accusi nessuno.» Si fermò, si passò la mano sugli occhi, tornò a leggere. «Come? Aiuto! Aiuto!» Riusciva solo a ripetere una parola. «Avvelenata! avvelenata! Félicité corse da Homais, che lo gridò in piazza. La signora Lefrançois lo sentì dal Leon d'Oro. Alcuni si alzarono dal letto per dirlo ai vicini. Per tutta la notte il villaggio restò sveglio. Smarrito, balbettante, in piedi per miracolo, Charles continuava a girare per la stanza. Urtava contro i mobili, si strappava i capelli. Il farmacista non avrebbe mai creduto che potessero esistere spettacoli così spaventosi. Tornò in bottega per scrivere al signor Canivet e al dottor Lariviere. Perdeva la testa. Fece più di 15 minuti. «Calma», disse il farmacista. «Bisogna semplicemente somministrare qualche potente antidoto. Di che veleno si tratta?» Charles gli fece vedere la lettera. «Arsenico». «Oh, allora è consigliabile un'analisi», disse Homais. Quel che sapeva era che in tutti i casi d'avvelenamento un'analisi ci vuole. L'altro, che non capiva nulla di nulla, gli rispose: «Oh, fate, salvatela!» Poi, riavvicinatosi alla moglie, si piegò per terra sul tappeto e vi restò a singhiozzare, la faccia sulla sponda del letto. «Non piangere», disse lei. «Presto non ti tormenterò più». «Ma perché? Chi ti ha costretta?» «Era necessario, caro». «Non eri felice? È stata colpa mia? Eppure ho cercato di fare tutto il possibile». «Sì, è vero. Sei buono, tu». Non odiava più nessuno adesso. Un confuso crepuscolo calava sulla sua mente. Di tutti i rumori del mondo, Emma ascoltava ormai soltanto l'intermittente lamento di quel povero cuore, dolce e indistinto, come l'ultima eco vanente d'una sinfonia. «Portatemi la piccina», disse, e si tirava su puntando il gomito. «Non stai peggio, vero?» domandò Charles. «No, no». La bambina arrivò in braccio alla serva. I piedini nudi le sbucavano dalla lunga camicia da notte. Era seria, ancora immersa in un sogno. Osservava con stupore la camera tutta in disordine e sbatteva le palpebre, accecata dai doppieri accesi sui mobili. «Ma che occhi grandi hai, mamma! Come sei pallida! Quanto sudore!» La madre la fissava. «Ho paura», disse la piccola tirandosi indietro. Emma le prese una manina, voleva baciargliela. Quella si dibatteva, non ne voleva sapere. «Oh, basta, portatela via», gridò Charles, che singhiozzava nell'alcova. Poi i sintomi cessarono per un momento. Lei parve meno agitata e a ogni parola insignificante, a ogni respiro un poco più calmo, lui riacquistava speranza. Quando Canivet fece finalmente il suo ingresso, gli si buttò tra le braccia piangendo. «Oh, siete voi! Grazie, siete buono! Ma ora tutto va meglio! Ecco, guardatela!» Il collega non fu però della stessa opinione e, senza stare, come disse, a spaccare il capello in quattro, ordinò un emetico per liberare completamente lo stomaco. Lei non tardò a vomitare sangue. Le sue labbra si serrarono maggiormente. Aveva le membra contratte. Chiazze brune le coprivano il corpo. Il suo polso scivolava sotto le dita come un filo teso, come la corda di un'arpa in procinto di spezzarsi. Poi attaccò a gridare, orribilmente. Malediceva il veleno, lo ingiuriava, lo supplicava di fare in fretta e respingeva con le braccia irrigidite tutto quel che Charles, più agonizzante di lei, tentava di farle mandar giù. Lui stava in piedi, il fazzoletto sulle labbra, rantolava, piangeva, soffocava per i singhiozzi che lo scuotevano sino ai talloni. Félicité correva di qua e di là per la stanza. Omè, immobile, emetteva gran sospiri. Il signor Canivet, pur conservando l'apparenza dell'imperturbabilità, cominciava a sentirsi veramente preoccupato. «Diavolo, eppure ormai è purgata, e cessando la causa...» «E dovrebbe cessare l'effetto, è evidente», disse Omè. «Ma salvatela!» gridava Bovary. Canivet stava per somministrare della teriaca quando si udì lo schiocco d'una frusta. Tutti i vetri tintinnarono e una berlina d'apposta, tirata a gran forza da 3 cavalli infangati sino agli orecchi, irruppe di colpo all'angolo del mercato. Era il dottor Lariviere. Aggrottò le sopracciglia già dalla soglia, notando la faccia cadaverica di Emma stesa sul dorso a bocca spalancata. Poi, pur avendo l'aria di stare a sentire Canivet, continuò a passarsi l'indice sotto il naso e ripeteva «Bene, bene», ma si strinse lentamente nelle spalle. Bovary l'osservò. Si guardarono e quell'uomo, che pure aveva una così lunga abitudine all'aspetto del dolore, non seppe trattenere una lacrima che gli rotolò sullo sparato. Volle condurre Canivet nella stanza vicina. Charles li seguì. «Sta molto male, vero? E se gli si applicassero dei senapismi? E io non so cosa. Trovate qualcosa voi che ne avete salvati tanti!» Charles lo stringeva con tutte e due le braccia. Lo contemplava con occhi sgomenti, supplicanti. Era mezzo svenuto contro il suo petto. «Via, povero ragazzo, fatevi coraggio. Non c'è più nulla da fare.» E il dottor Lariviere si girò. «Ve ne andate!» «Torno subito.» Uscì come per dare un ordine al cocchiere. Uscì anche il signor Canivet, che non aveva nessuna voglia di vedersi morire tra le mani Emma. Il farmacista li raggiunse sulla piazza. «Professore, ho voluto tentare un'analisi e, primo, ho delicatamente introdotto un tubo...» «Avreste fatto meglio a introdurle le vostre dita in gola», disse il chirurgo. L'attenzione pubblica era attratta dall'apparizione del reverendo Bournisien, che passava sotto i portici del mercato con l'olio santo. Homais tornò dai Bovary insieme con Canivet, che il signor Lariviere, prima di partire, aveva esortato a compiere un'ultima visita. Quando entrarono, la camera era lugubremente solenne. Emma, con il mento contro il petto, sbarrava smisuratamente gli occhi e le sue povere mani si increspavano sul lenzuolo con quel movimento ripugnante e lento degli agonizzanti che paiono volersi già coprire con il sudario. Pallido come una statua, gli occhi rossi come tizzoni ardenti, Charles stava davanti a lei, ai piedi del letto. Non piangeva più. Appoggiato a un ginocchio, il prete borbottava sommessamente. Con lentezza lei girò la faccia e parve invasa da una gran gioia nel vedere la stola viola. Certo, ritrovava in una pace improvvisa la perduta voluttà dei suoi primi slanci mistici, e insieme incipienti visioni di beatitudine eterna. Il prete si rialzò per prendere il crocifisso. Allora lei protese il collo come qualcuno che ha sete e, incollando le labbra sul corpo dell'uomo Dio, vi depositò con tutta la sua forza fuggente il più profondo bacio d'amore che avesse mai dato. Poi il prete recitò il Misereatur e l'Indulgentiam, immerse il pollice destro nell'olio e cominciò l'unzione. Prima sugli occhi, che avevano tanto bramato il fasto mondano, poi sulle narici, che erano state tanto avide di tiepide brezze e di profumi amorosi, poi sulla bocca, che s'era tanto aperta alla menzogna, ai gemiti dell'orgoglio, alle grida della lussuria, poi sulle mani, che avevano preso tanto diletto ai dolci contatti, e alla fine sulla pianta dei piedi, che erano stati tanto rapidi nei giorni in cui lei correva a saziare i propri desideri, i piedi che non avrebbero mai più camminato. Il prete si asciugò le dita, buttò nel fuoco i batuffoli impregnati d'olio e tornò a sedersi accanto all'agonizzante per dirle che ormai doveva unire le proprie sofferenze a quelle di Gesù Cristo, abbandonarsi alla misericordia divina. A conclusione di quelle esortazioni, volle metterle in mano un cero benedetto, simbolo delle glorie celesti di cui tra poco sarebbe stata circondata. Troppo debole, Emma non riuscì a chiudere le dita. Senza l'aiuto del reverendo Bournisien, il cero sarebbe caduto a terra. Adesso lei non era più tanto pallida. La sua faccia aveva un'espressione serena, come se il sacramento l'avesse guarita. Don Bournisien riprese a pregare, il volto appoggiato alla sponda del letto, la lunga sottana nera che gli si allungava dietro come uno strascico. Charles era in ginocchio dall'altro lato del letto, le braccia tese verso Emma. Le aveva preso le mani, gliele stringeva, trasalendo a ogni battito del suo cuore come al contraccolpo d'una caduta rovinosa. Via via che il rantolo aumentava di intensità, il sacerdote infittiva le sue preghiere. Le preghiere si mescolavano ai singhiozzi soffocati di Bovary e ogni tanto tutto pareva scomparire nel sordo mormorio delle sillabe latine, rintoccanti come una campana. D'improvviso si sentirono sul marciapiede un frastuono di pesanti zoccoli, lo strascicare d'un bastone, poi una voce roca che cantava «Spesso d'estate il calor fa sognare alle pupe l'amor». Emma balzò su come un cadavere galvanizzato, i capelli tutti sciolti, le pupille fisse, beanti. «Il cieco!» gridò. E scoppiò a ridere. Un riso atroce, frenetico, disperato. Credeva di vedere la ripugnante faccia del mendico drizzarsi come un incubo nelle tenebre eterne. Una convulsione la rovesciò sul materasso. Tutti si avvicinarono. Non esisteva più. Quando qualcuno muore, si diffonde sempre un senso di incredulità. Tanto è difficile capire il sopravvento del nulla, rassegnarsi a crederci. Ma appena s'accorse che lei restava immobile, Charles le si buttò addosso, gridava «Addio! Addio!». Omè e Canivet lo trascinarono fuori della camera. «Calmatevi!». Diventato più debole di un bambino, Charles acconsentì a farsi condurre da basso in sala. «Adesso dovreste fissare l'ora della cerimonia», disse il farmacista. «Perché mai? Quale cerimonia?». Poi, balbettando spaventato, «Oh, no, vero, no, io voglio tenerla con me!». Omè non osò tornare a parlargli delle disposizioni per il funerale. Fu il sacerdote che riuscì a convincerlo. All'alba arrivò la vecchia Bovary. Abbracciandola, lui ebbe una nuova crisi di pianto. Come il farmacista, la madre tentò di fargli qualche osservazione sulle spese del funerale. Lui s'arrabbiò in modo tale da ridurla immediatamente al silenzio. Anzi, le ingiunse di affrettarsi in città per acquistare quanto occorreva. Omè, quando tornò alle 9, da 2 giorni si vedeva solo lui in piazza, era carico d'una provvista di canfora, di benzoino ed erbe aromatiche. Portava anche un vaso pieno di cloro per vincere le cattive esalazioni. La serva, la signora Le François e la vecchia Bovary armeggiavano intorno a Emma terminando di vestirla. Alla fine abbassarono il lungo velo rigido che la coprì sino agli scarpini di raso. Charles entrò. Veniva per l'ultima volta a dirle addio. Le erbe aromatiche fumigavano ancora. La cera delle candele cadeva in grosse lacrime sulle lenzuola. Charles le guardava ardere, consumandosi gli occhi ai raggi delle loro fiamme gialle. Riflessi si inseguivano sulla veste di raso, bianca come un chiar di luna. Emma vi spariva dentro, e a lui pareva che, espandendosi fuori di se stessa, si perdesse confusamente nelle cose circostanti, nel silenzio, nella notte, nel vento che correva via, nell'umidità che continuava a salire dalla terra. Poi, di colpo, la rivedeva in giardino, a Tost, sulla panchina, contro la siepe di biancospino, oppure a Rouen, in strada, sulla soglia di casa, nel cortile dei Bertaux. Sentiva ancora il riso della gioventù allegramente danzante sotto i meli e la camera era invasa dal profumo dei suoi capelli. La sua veste gli guizzava tra le braccia come un crepitio di scintille. E quella che aveva sotto gli occhi era la stessa persona. Lo assalì una terribile curiosità. Lentamente, con la punta delle dita, palpitando, le alzò il velo sulla faccia. Ma allora gridò di orrore.